bene, maliziosa, ma quella schifosa è mo, è mo, è mo, è mo, è mo, lo malichiedo, c'è sta qualcuno un po' che a nullo, a nullo, nullo, nullo, nullo, udetene, che a Dio tene ancora, e chi sto per gli amore, e c'è non ti scodene, schi to per scoglia, e tante, tante, tante, tante, tante malizie, chi mai ne può contare, non può contare. Ma te frate precede, ede, ede, ede, ede, maliziosa, ma quella schifosa è mo, è mo, è mo, è mo, è mo, lo malichiedo, c'è sta qualcuno un po' che a nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, udetene, che a Dio tene ancora, e chi sto per gli amore, e c'è non ti scodene, schi to per scoglia, e tante, tante, tante, tante, tante malizie, chi mai ne può contare.